Avviamo tutto. Siamo con Loris Seghizzi, direttore della 20ª edizione di Collinaria Festival all'Ari, in provincia di Pisa, dal 13 al 22 luglio. Loris, ben trovato. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, Federico, buonasera. 20ª edizione. Accidenti, sono diventato grande anche io alla fine, mi hanno toccato. Sì. Quando sento dire dagli altri mi fa un po' di emozione, un po' di malinconia, un po' di tutto. Il contenitore è la bellezza comunque. Senti, come festeggiate quest'anno, questa edizione importante? Partendo dal fondo ci siamo fatti questo regalo, io sono sempre stato un grande fan di quelli che erano i CCCP, e poi i CSI, quando ancora Ferretti era Era in sé. nella band, poi ha preso la sua strada, insomma, lasciamo da parte l'uomo e teniamo l'artista, per me sono sempre stati, ecco, un riferimento, quindi siamo riusciti a organizzare questa reunion, unico concerto del 2018, e questo è il regalo che ci siamo fatti. Cioè, poi sarà un festival stranamente, dico stranamente perché non siamo abituati a mettere tante cose nostre dentro un festival che organizziamo, invece quest'anno sarà piuttosto autocelebrativo, abbiamo scelto degli spettacoli da inserire nostri, perché sono 20 anni di festa, ma sono anche 20 anni di Scenica Frammenti e sono 20 anni di Romeo e Giulietta, che è uno spettacolo che fra l'altro è una storia che ha oltre 50 anni, quindi insomma sarà una festa molto, molto particolare. Ci sono varie cose nostre, ma poi ci sono 5 spettacoli usciti dal bando. Abbiamo messo insieme un po' tutte le componenti che in questi anni hanno reso il festival quello che è adesso, quindi cercare la novità, cercare i gruppi emergenti, mettere dentro invece l'esperienza, unire la musica e soprattutto la festa, questo deve essere, insomma. Sì. Senti, quante saranno le performance, indicativamente? Ma allora, sono 25, diventeranno una trentina con la serata finale, in 10 giorni, sono una trentina di spettacoli alla fine, più ci saranno degli incontri, ci saranno delle sorprese, perché molte cose le stiamo costruendo anche fuori dal programma, ma che avverranno, un po' come dovrebbe essere una festa vera, no? Che dove la sorpresa ci deve comunque essere, ospiti che arriveranno anche all'ultimo momento, che saranno quindi dichiarati quando a pochi minuti prima del loro arrivo, o poche ore prima del loro arrivo, perché artisti che sono in giro, quindi non tutti possono partecipare, ma cerchiamo insomma di convogliare all'Ari tutti quelli che hanno segnato in qualche modo il nostro cammino, che ci hanno aiutato in questo percorso, in questi lunghi anni, insomma. Ecco, a proposito di lunghi anni, per chi non lo conoscesse, quali sono le caratteristiche di Collinaria? È il festival della resistenza teatrale collinaria, infatti quest'anno c'è questo premio che abbiamo preso, il premio Pavlova, che ci viene dato proprio per questa tenace resistenza che siamo riusciti a mettere in atto, perché comunque questo, ricordiamoci, che è un festival che non ha mai usufruito di un finanziamento regionale, tantomeno ovviamente ministeriale. Quindi è un festival che si regge, si sostiene grazie all'intervento dell'amministrazione, ora è rimasta una che interviene, e delle realtà private locali e dello sforzo generale che mettiamo in campo noi, insomma. Sì. Quindi, dietro a questo c'è tanto mestiere, tanto lavoro e ovviamente tanta voglia, che se no non si farebbe nulla. Senti, un bilancio anche in considerazione di questo 20º compleanno? Il bilancio è dolce amaro, nel senso che ovviamente siamo felici di essere riusciti a resistere, appunto, citando le parole di qui sopra, tutto questo tempo, e sappiamo anche bene, abbiamo memoria di quello che era e di quello che è diventato oggi il mondo del teatro, e ai grandi livelli, comunque come compagnia ci muoviamo nei circuiti e conosciamo quindi un po' la realtà di tutta Italia, ma anche a livelli, parlo anche a livello amministrativo, dei piccoli comuni, dei piccoli borghi, delle realtà, ecco, che non sono alla luce del grande circuito teatrale. Quindi è un po' triste vedere che fondamentalmente piano piano, un bocconcino alla volta, viene mangiato tutto il pasto che dovrebbe essere dedicato all'arte, quindi fieri, orgogliosi di esserci, allo stesso tempo anche piuttosto stanchi e spesso rattristati e malinconici. Clowneschi, ecco, direi. Senti Loris, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Sì, il sito è collinarea.it, quindi www.collinarea.it, poi il canale Facebook è molto attivo. Una cosa molto importante quest'anno per il 20° anno, proprio per rilanciare, visto che i soldi sono pochi, abbiamo deciso di fare un festival con l'uscita responsabile. Non abbiamo messo il biglietto, quindi abbiamo attivato una campagna crowdfunding su Buona Causa, quindi su buonacausa.it trovate la nostra campagna a sostegno del Collinarea. Soltanto il concerto finale prevederà un biglietto che è già in prevendita nel circuito box office e Ticket One. Collinarea.it, questo è buonacausa.org, forse buonacausa.org. Ok. E allora ricordiamo l'appuntamento con la 20ª edizione di Collinarea Festival all'Ari, provincia di Pisa, dal 13 al 22 luglio. Un saluto e un ringraziamento al direttore Loris Seghizzi. Loris, un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. Anche a te e a tutti voi, grazie Federico. Ciao, a presto. Ciao, ciao.